Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Poli legge Pinocchio di Carlo Collodi. Pinocchio mangia lo zucchero, ma non vuol purgarsi. Però quando vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga. Poi dice una bugia e per gastigo gli cresce il naso. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire. Allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier d'acqua e porgendola al burattino gli disse amorosamente: «Bevila e in pochi giorni sarai guarito». Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi domandò con voce di piagnisteo: «È dolce o amara?» «È amara, ma ti farà bene». «Se amara non la voglio». «Da retta a me, bevila». «A me l'amaro non mi piace». «Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca». «Dov'è la pallina di zucchero?» «Eccola qui», disse la fata, tirandola fuori da una zuccheriera d'oro. «Prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quell'acquaccia amara. Me lo promette?» «Sì». La fata gli dette la pallina e Pinocchio, dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo, disse leccandosi i labbri: «Bella cosa, se anche lo zucchero fosse una medicina, mi purgherei tutti i giorni». «Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute». Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso. Poi se l'accostò alla bocca, poi tornò a ficcarvi la punta del naso. Finalmente disse: «È troppo amara, io non la posso bere». «Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata?» «Me lo figuro, l'ho sentita all'odore, voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò». Allora la fata, con tutta la pazienza di una buona mamma, gli pose in bocca un altro po' di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere. «Così non la posso bere», disse il burattino facendo mille smorfie. «Perché?» «Perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi». La fata gli levò il guanciale. «È inutile, nemmeno così la posso bere». «Che cos'altro ti dà noia?» «Mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto». La fata andò e chiuse l'uscio di camera. «Insomma», gridò Pinocchio dando in uno scoppio di pianto, «questa acquaccia amara non la voglio bere, no, no, no». «Ragazzo mio, te ne pentirai». «Non me ne importa». «La tua malattia è grave». «Non me ne importa». «La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo». «Non me ne importa». «Non hai paura della morte?» «Punto paura, piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva». A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola bara da morto. «Che cosa volete da me?» gridò Pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto. «Siamo venuti a prenderti», rispose il coniglio più grosso. «A prendermi? Ma io non sono ancora morto». «Ancora no, ma ti restano pochi minuti di vita, avendo ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre». «Oh, fata mia, oh, fata mia!» cominciò allora a strillare il burattino. «Datemi subito quel bicchiere, spicciatevi per carità, perché non voglio morire, no, non voglio morire!» E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo vuotò in un fiato. Thank you. pazienza, dissero i conigli. Per questa volta abbiamo fatto il viaggio a UFO. E tiratisi di nuovo la piccola bara sulle spalle, uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti. Fatto sta che di lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto bel guarito, perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispo e allegro, come un gallettino di primo canto, gli disse: «Dunque, la mia medicina t'ha fatto bene davvero?» «Altro che bene! Mi ha rimesso al mondo!» «E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?» «Egli è che noi ragazzi siamo tutti così, abbiamo più paura delle medicine che del male.» «Vergogna! I ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte.» «Oh, ma un'altra volta non mi farò tanto pregare. Mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù. Ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini.» «Gli andò che il burattinaio Mangiafoco mi dette alcune monete d'oro e mi disse: «To, portale al tuo babbo.» E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto per bene, che mi dissero: «Vuoi che codeste monete diventino 1000 e 2000? Vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli.» E io dissi: «Andiamo.» E loro dissero: «Fermiamoci qui all'osteria del Gambero Rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo.» E io, quando mi svegliai, loro non c'erano più perché erano partiti. Allora io cominciai a camminare di notte, che era un buio che pareva impossibile, per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone, che mi dissero: «Metti fuori i quattrini!» E io dissi: «Non ce n'ho!» Perché le quattro monete d'oro me le ero nascoste in bocca, e uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca, e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai. Ma invece di una mano sputai uno zampetto di gatto, e gli assassini a corrermi dietro, e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo un albero di questo bosco col dire: «Domani torneremo qui e allora sarai morto e con la bocca aperta, e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua.» «E ora le quattro monete dove le hai messe?» gli domandò la fata. «Le ho perdute», rispose Pinocchio, ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più. «E dove le hai perdute?» «Nel bosco qui vicino.» A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere. «Se le hai perdute nel bosco vicino», disse la fata, «le cercheremo e le ritroveremo, perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre.» «Ora che mi rammento bene», replicò il burattino imbrogliandosi, «le quattro monete non le ho perdute, ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina.» A questa terza bugia il naso gli si allungò in modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera. Se alzava un po' più il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva. «Perché ridete?» gli domandò il burattino, tutto confuso e impensierito di quel suo naso che cresceva a occhiate. «Rido della bugia che hai detto.» «Come mai? Sapete che ho detto una bugia?» «E le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo.» Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta. Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera, e lo fece per dargli una severa lezione perché si correggesse dal brutto vizio di dire bugie. Il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori della testa dalla gran disperazione, allora, mossa pietà, batté le mani insieme. A quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi, i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale. «Oh, quanto siete buona, fata mia!» disse il burattino, asciugandosi gli occhi. «E quanto bene vi voglio!» «Ti voglio bene anch'io!» rispose la fata. «E se tu vuoi rimanere con me...» Tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina. Oh, io resterei volentieri, ma il mio povero babbo, ho pensato a tutto, il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui. Davvero? Gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. Allora, fatina mia, se vi contentate vorrei andargli incontro. Non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me. Vai pure, ma bada di non ti sperdere. Prendi la via del bosco e sono sicurissima che lo incontrerai. Pinocchio partì, ma appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo, ma quando fu arrivato a un certo punto, quasi in faccia alla quercia grande, si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche. Difatti, vide apparire sulla strada, indovinate chi, la volpe e il gatto, ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del Gambero Rosso. «Ecco il nostro caro Pinocchio!» gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo. «Come mai sei qui?» «Come mai sei qui?» ripeté il gatto. «È una storia lunga!» disse il burattino. «Ve la racconterò a comodo. Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo nell'osteria, ho trovato gli assassini per la strada.» «Gli assassini?» «Oh, povero amico! E che cosa volevano?» «Mi volevano rubare le monete d'oro!» «Oh, infami!» disse la volpe. «Infamissimi!» ripeté il gatto. «Ma io cominciai a scappare!» continuò a dire il burattino. «E loro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi impiccarono un ramo di quella quercia!» E Pinocchio accennò la quercia grande, che era lì a due passi. «Oh, si può sentir di peggio!» disse la volpe. «In che mondo siamo condannati a vivere? Dove troveremo un rifugio sicuro, noi altri galantuomini?» Nel tempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti, perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli. Per cui gli domandò: «Che cosa hai fatto del tuo zampetto?» Il gatto voleva rispondere qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito: «Il mio amico è troppo modesto. Per questo non risponde. Risponderò io per lui. Sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, che ci ha chiesto un po' d'elemosina, non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce. Che cosa ha fatto l'amico mio, che ha davvero un cuore di Cesare? Si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi.» E la volpe, nel dir così, si asciugò una lagrima. Pinocchio, commosso anche lui, si avvicinò al gatto, sussurrandogli negli orecchi: «Se tutti i gatti ti somigliassero, fortunati i topi!» E ora? Che cosa fai in questi luoghi? Domandò la volpe al burattino. Aspetto il mio babbo che deve arrivare qui di momento in momento. E le tue monete d'oro? Le ho sempre in tasca, meno una che spesi all'osteria del Gambero Rosso. E pensare che invece di 4 monete potrebbero diventare domani 1000, 2000. Perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Oggi è impossibile. Vi anderò un altro giorno. Un altro giorno sarà tardi, disse la volpe. Perché? Perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi denari. Quanto è distante di qui il campo dei miracoli? 2 chilometri appena. Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là, semini subito le 4 monete, dopo pochi minuti ne raccogli 2000 e stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi? Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio Geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante. Ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì, cioè, col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto: «Andiamo pure, io vengo con voi!» E partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappacitrulli. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina ad un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento ormai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina. «E il campo dei miracoli dov'è?» domandò Pinocchio. «È qui a 2 passi». Detto fatto, traversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi. «Eccoci giunti», disse la volpe al burattino. «Ora chinati giù a terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro». Pinocchio ubbidì, scavò la buca, ci pose le 4 monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra. «Ora poi», disse la volpe, «vai alla gora qui vicina, prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato». Pinocchio andò alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia, si levò di piedi una ciabatta e riempitala d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò: «C'è altro da fare?» «Nient'altro», rispose la volpe. «Ora possiamo andar via, tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete». Il povero burattino, fuori di sé dalla contentezza, ringraziò 1000 volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo. «No, no, no, noi non vogliamo regali», risposero quei 2 malanni. «A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasque». Ci ho detto, salutarono Pinocchio e, augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro.